Non si rideva davvero nell'ufficio della ditta Muracchi e figli. Il lungo e basso edificio di cemento nel quale si svolgeva il lavoro inerente all'attività di sei grandi negozi di antiquaria nelle maggiori città del Giappone era, per quanto possibile, vicino al mare, così da sfruttare al massimo la breve distanza dal porto. Aiwan seguì Bungie attraverso il portone d'ingresso, poi attraverso un cortile dal pavimento cementato. Abbiamo fatto del nostro meglio per persuadere mio padre a trasferirsi a Yokohama, disse Bungie, ma tutto quello che abbiamo ottenuto è stato di indurlo a mandarci mio fratello maggiore Shio. Mio padre è nato nella casa che avete vista, come mio nonno del resto, e non vuol saperne di abbandonare quest'isola di Kyushu. La cosa presenta parecchi inconvenienti, soprattutto perché dopo che i maggiori piroscafi vanno a nafta, essi non si fermano più a Nagasaki per rifornirsi di carbone come una volta, così il traffico turistico è molto diminuito, a differenza di un tempo in cui Nagasaki era frequentata specialmente dagli americani. Ma che cosa possiamo farci, mio fratello ed io? Mio padre non si vuol muovere, così dirigiamo i nostri affari di qui, intendo le vendite dei nostri negozi. Entrarono. Nell'interno l'edificio era pulitissimo e brutto, tutto era in cemento. Sui pavimenti non c'erano stuoie né altri tappeti. Le pareti, pure di cemento, erano nude, salvo per alcune carte. In un'immensa sala, 20 uomini lavoravano curvi sulle loro scrivanie in completo silenzio. Tutti vestivano all'occidentale. Contabili e ragionieri, disse Bungie. Ecco qua il mio ufficio. La vostra scrivania sarà qui per qualche tempo, ma prima di tutto devo portarvi da mio fratello Akio, maggiore anche lui di me. Batté a una porta chiusa e rimase in ascolto. Avanti, disse una voce profonda. Bungie spalancò la porta. Akyo, ecco Wu Ai-wan. Un uomo in costume giapponese sedeva davanti a una bassa scrivania. Era l'unica persona dell'edificio, a parte i fattorini, che Ai-wan avesse veduto in costume non occidentale. Akyo alzò gli occhi e fece un cenno col capo senza sorridere. Ai-wan vide una faccia non comune, malinconica e intensa. Le tempie erano rientranti, gli zigomi alti, la bocca era squisita e triste. Non somigliava a Bungie. Avanti, favorite, avanti, disse in inglese. Mi dispiace di non saper parlare cinese, ma voi imparerete presto il giapponese. La voce risuonava piena di echi. Lo spero, signore, rispose Aiwan. Non ne ho il menomo dubbio, mormorò Akyo. Per un momento si guardarono incerti. Devo mostrargli la sua scrivania? Chiese Bungie. Sì, è la miglior cosa da fare, rispose Akyo. E poi, come se temesse di essere stato scortese, s'alzò e si inchinò. Spero, disse vagamente, che tutto andrà secondo i vostri desideri. Così è già ora, rispose Aiwan. Ma Akyo sembrava non più udire. Tornò a sedere con gli occhi curiosamente vuoti. Venite, disse Bungie. Procedettero per un corridoio, a metà del quale Bungie disse con un sospiro: Mio fratello ha un guaio, non va d'accordo con mio padre. Un giorno o l'altro, quando sarete meglio informato, ve ne parlerò. Aiwan non sapeva che cosa dire, perciò tacque. Certamente Akio non sembrava appartenere a quella famiglia di gente dal cuore sereno. Ecco il vostro ufficio, disse Bungie. Entrarono in una nuda stanza quadrata dove c'erano due scrivanie ed alcune sedie dallo schienale dritto. Su una delle scrivanie era un mazzetto di caprifoglio. Ecco la vostra scrivania, disse Bungie. L'ho fatta disporre a quel modo affinché abbiate una veduta del mare. Aiwan guardò e là, oltre la finestra, vide la spiaggia rocciosa che in quel punto faceva un gran seno. Sulle rocce alcuni pini mezzo scapitozzati dal vento. Se il vostro occhio potesse vedere a gran distanza davanti a voi, vedreste dalla finestra il vostro paese. Aiwan si voltò. Il suo paese non era che un nome senza significato presente né futuro. Non si trovava in esilio per sempre. Quali sono i miei compiti? Domandò con voce asciutta. Sulla scrivania c'era una pila di libri. Sono tutte relazioni annuali, disse Bungie. Per desiderio di mio padre le ho portate qui affinché le esaminiate. Si riferiscono agli affari di 10 anni. Se le studierete per alcuni giorni vedrete i principi secondo i quali lavoriamo e l'espansione presa dai nostri affari. Per Mio fratello Akio, continuò, è fra tutti noi il miglior uomo d'affari e quantunque il primogenito Shio sia il titolare dopo mio padre, il più attivo è Akio. Shio è troppo artista, è lui che giudica della qualità della nostra merce ed è lui che procede agli acquisti. Qualche volta non vuol vendere certi pezzi di antiquariato e allora è Akio che va a verificare e a dire l'ultima parola. Bene, siete pronto? Sì. Disse Iwan, meglio far quel lavoro che qualunque altra cosa. Si levò il cappello e il soprabito e aprì i libri. Un servo arrivò con dei polsini di carta e gli insegnò come si faceva a calzarli. Anche Bungee li aveva. Era già alla sua scrivania, Bungee, con un paraocchi fissato alla fronte, un pallottoliere nella mano sinistra, mentre con la destra scriveva dei numeri. Non sorrideva più. Era concentrato intensamente nel suo lavoro e le labbra, mentre borbottava cifre, si muovevano. Aiwan aveva sempre visto i pallottolieri nelle botteghe di Shanghai, ma non aveva mai visto un'abilità come quella di Bungee. La mano corta e tozza si muoveva con sorprendente facilità, manovrando le pallottole. Poi, con una penna stilografica, Bungee segnava i totali in migliaia di yen. Aiwan cominciò la sua lenta lettura. A tutta prima pensò che stupidaggine, ma poi dimenticò se stesso nella descrizione minutissima di tutto quel che passava nella casa Muraki, dipinti a sete, mobili di classe, porcellane, ricami, avori, argenti filigranati, bronzi, lacche, tappeti. Era come una grande rete da pescatore quell'azienda, una rete che insieme raccoglieva e diramava per il mondo venduti, ben scelti tesori. Ben presto la sua curiosità si svegliò, passando dall'uno all'altro libro, dall'uno all'altro capitolo. La rete era gettata soprattutto sull'India, sulla Cina e i mari del sud. La preda defluiva poi verso Occidente, in particolare verso gli Stati Uniti. Aiwan lesse fra i nomi cinesi che conosceva: avorio, ebano, tek, argenti e giada di Canton, penne azzurre di Martin Pescatore di Fuzhou, antiche pitture del Fujian, vasellame Jiangxi, ninnoli dello Shenzhen, pergamene e pannelli dipinti dei palazzi imperiali. Era stupefatto. Come facevano ad accaparrarsi tutta quella roba, pensò. E chi vendeva i pannelli imperiali? Erano tesori nazionali, non potevano essere venduti, pensò. Quando conoscerò meglio Bungee, glielo domanderò. Era preso da un senso di indignazione, quantunque non potesse naturalmente far colpa alcuna alla casa Muraki, che pagava quello che comperava, anche se, naturalmente, rivendeva con larghissimo margine di profitto. Stava per esaminare appunto questo capitolo dei profitti quando Bungee gli disse: Aiwan, è ora di andare a casa, siete lì da 3 ore, vi interessa tutto ciò? No, oh, ho perso la nozione del tempo, disse Aiwan. Alzò gli occhi. I raggi sempre più lunghi del sole illuminavano obliqui il mare. Tornarono a piedi ed entrarono nel giardino. Di lontano, Aiwan vide una fanciulla vestita d'azzurro, in piedi su un ponticello gettato su un piccolo stagno. La fanciulla guardava l'acqua. Tama ci ha preceduti sulla via del ritorno, osservò Bungee. Chiamò, ma la fanciulla non rispose. Bah, disse, certo sogna qualche cosa. Entrò per primo in casa e Daiwan lo seguì. Di nuovo il suo cuore si alleggeriva inesplicabilmente. Andò in camera sua, s'allungò sulle stuoie e rimase così a giacere, fisso nella contemplazione del minuscolo giardino. Ogni sassolino dei viali era perfettamente a suo posto. La piccola corrente dell'acqua era incanalata verso una roccia piatta e cadeva nello stagno in miniatura, così piccolo eppure così studiato, da dare, nell'esattezza dei rapporti con le cose circostanti, l'impressione di essere di assai maggiore dimensioni. Aiwan rimase a lungo assorto in quella contemplazione. Strano come in poche ore i luoghi gli fossero diventati così familiari da dargli l'impressione di poterli considerare come suoi. C'era in essi un senso di sicurezza nel quale anelava di adagiarsi. Mondo incantato. Non costituiva ancora il suo sogno, ma era tale sempre da incantare. Per poco che uno astraesse dal proprio tormento interiore, come ormai gli accadeva. Quella sua stanza divenne per lui un rifugio al quale, lavorando nello studio commerciale, pensava dilettosamente. Al termine di ogni giornata ci tornava per godere di quel silenzio e di quella solitudine. Aveva cominciato a comprare alcuni libri di un genere che non aveva mai letto prima, poesie e romanzi inglesi. Nella botteguccia di libri usati, dove li aveva trovati, evitò di cercarne di quelli che un tempo piacevano a lui e a Denlan. E del resto di quel genere di libri non v'era traccia, erano proibiti. Così Aiwan si dedicò per la prima volta in vita sua ad amene letture di libri di passioni offerte e accettate. Buttato sulla stuoia della sua stanza, leggeva e leggeva, solo interrompendosi per guardare pensoso il giardino. C'erano altri mondi, dunque, oltre a quello che aveva sognato con Elan. Pensò ad Aiko, ma Aiko non poteva pensare ad amori come quello di cui si parlava in quei libri, così puri e potenti. Aiwan ne era incantato. E poi, in una giornata d'estate, sentì un'irrequietezza senza perché. Era nel Giappone da 4 mesi e si era assuefatto al ritmo delle sue giornate. Quel giorno, era già quasi l'ora di cena, s'alzò, si mutò d'abiti ed entrò nella sala da pranzo. Qualcuno già c'era. Era Tama, occupata a collocare fiori in un vaso. Ah, sono entrato troppo presto, si scusò costernato. Tama avrebbe pensato che gli era entrato apposta prima del tempo per approfittare della sua solitudine. In tutte quelle settimane non l'aveva mai incontrata da sola. Ora arretrò, imbarazzato. Non importa, disse lei in fretta, perché dovremmo aver paura? Com'è naturale? Pensò stupefatto Aiwan, certo di gran lunga più naturale di lui. Di che cosa potevano parlare lì a quattro occhi? Egli non poté pensare a niente, né immaginava quali pensieri passassero per il capo della fanciulla. Mai, in vita sua, aveva parlato a quattro occhi con una ragazza. Unica eccezione Peonia, ma Peonia non contava. Tamà infilò un rametto pieno di gemme in un alto vaso verde, studiatamente, per ottenerne il migliore effetto. È bello, mormorò Aiwan. Tama afferrò un paio di forbici e fece saltare uno spuntone o due. Noi ragazze giapponesi, disse, veniamo preparate con cura a questo lavoro. Poi soggiunse un po' imbronciata, ma nessuno mi insegna le cose che davvero vorrei sapere. Egli stava per domandarle, che cosa? Quando un paravento si scostò e comparve il signor Muraki, che li guardò entrambi. Oh, mormorò stupefatto. Si inchinò brevemente ad Aiwan, guardò i fiori e non parve contento. Va bene, babbo? Domandò Tamà. Il viso del signor Muraki cambiò. Dimenticò il suo stupore, afferrò le forbici e cominciò a sforbiciare i rametti con mosse rapide. Tamà ed Aiwan lo guardavano senza parlare. Quando ebbe finito, il rametto era ridotto a poco più di uno stecco sul quale pochi fiori spiccavano con squisito effetto decorativo. Ah! Esclamò beato in viso. Così va bene, Tamà. Nessuna esuberanza, questa è la regola dell'arte e della vita. Non era successo nulla di particolare, si disse a Iwan quella sera, rientrando nella sua camera. Era stato appena un attimo, ma era bastato perché sentisse battersi forte il cuore per un sentimento mai provato prima, un sentimento di timida dolcezza. Ripensandoci, rise. Scherzi di quelle storie d'amore, pensò. Leggo troppo, ma era contento. Quel suo senso di letizia permeava le giornate, rendendo piacevole ogni cosa. La figura di Tamà non c'entrava, il sapere che ella era parte della vita della casa approfondiva, se possibile, la sua intima pace. La vedeva di rado Tamà, e mai sola, e non gli passava per il capo di violare l'ospitalità di cui era oggetto, tentando di vederla. Ella passava le sue giornate a scuola e spesso egli desinava solo con bugie e suo padre. Qualche volta, tuttavia, la signora Muraki veniva anche lei e allora compariva anche Tamà. Così, placidamente, un giorno dopo l'altro passò un anno. Aiwan cominciava ad assuefarsi alla linda cittadina che ormai conosceva bene per averla vista nel mutar delle stagioni, dalla primavera alle morbide nevi invernali, in luogo delle vie affollate di Shanghai. Qui c'erano stradine anguste che seguivano i contorni delle colline rocciose con lunghi giri sui ponti e anfratti profondi per riemergere ancora in vista delle isole. In certi tratti, Si inerpicavano su per i monti fino ai templi e ai parchi pubblici e scendevano poi precipiti verso il mare. Non c'erano ingorghi di folla, la gente badava ai fatti suoi, dello spazio ce n'era e tutto era lindo. Aiwan dovette confessarsi molte cose. Certo, quel paese era pulito, molto più pulito del suo, non c'erano mendicanti e nemmeno poveri. O era forse perché i poveri in quei luoghi erano anch'essi gente pulita. Un kimono di cotone fiorito come la primavera costava appena pochi soldi, nessuno ostentava ricchezze, persino i ricchi, per poco che la giornata fosse mite, giravano coi piedi scalzi infilati nelle scarpe di legno. In una giornata di neve, Aiwan vide una cosa incredibile: due garzoni di trattoria lanciati a rapida corsa in bicicletta si urtarono, con conseguente caduta di entrambi e rottura dei piatti di vettovaglie che portavano nei loro cesti. Aiwan si aspettava di vederli accapigliarsi, così come sarebbe accaduto in qualunque altro luogo, ma con sua meraviglia vide che si inchinavano a vicenda, aspirando leggermente l'aria attraverso i denti. «Colpa mia!» disse uno. «No, no!» rispose l'altro. «Non permetto, la colpa è mia!» Si chinarono, ciascuno raccolse i piatti dell'altro e proseguirono la loro strada. Aiwan, che non aveva mai visto un simile esempio di cortesie, ne fu sbalordito. In realtà, già il piccolo paese che lo ospitava andava conquistandolo con la sua vita semplice e ordinata. Imparò ad amar tutto. Le notti che passava dormendo su di una spessa stuoia stesa sul pavimento, avvolto in una pulita coperta di seta, e le mattine in cui si svegliava sentendo nelle nari il fresco odore del mare e nelle orecchie il leggero shir-shir delle tramezze scorrevoli. Faceva colazione solo nella sua camera, dopo essersi lavato, poi andava in ufficio. Nel pomeriggio, 2 o 3 volte per settimana, sopravvenendo la primavera, andava con Bungie a certo stabilimento di bagni, dove c'era una gran piscina quadrata, nella quale entravano, dopo essere stati lavati e strofinati a dovere con sapone e secchi d'acqua, da un bagnino. Nella piscina c'erano anche delle donne e a tutta prima la cosa riuscì ostica ad Aiwan. Non lo nascose a Bungie, osservando che in altri paesi le cose sarebbero state diverse. Bungie spalancò gli occhi. «Perché?» domandò. «Un gentiluomo non guarda una donna quando è nel bagno. Se io qui guardassi una donna, ella prenderebbe il mio sguardo come un insulto.» Aiwan non disse nulla. «Strana gente!» Dovevano essere uomini ben forti, pensò, e buoni, e superiori alla comune carnalità, e capaci di controllare quell'impeto caloroso che qualche volta turbava lui, ora che il vecchio intimo raccoglimento era venuto meno. Ma c'era Akio. Akio andava e veniva tranquillamente ogni giorno, come se non fosse appartenuto alla casa di suo padre. A cena era sempre al suo posto, meticoloso, tacito. Rispondeva solo alle domande che gli erano rivolte, ma non parlava mai per primo. Passarono mesi prima che Bungie parlasse di lui a Daiwan. Finalmente gli disse a bassa voce: Akio si innamorò di una cortigiana e mio padre è in collera con lui perché voleva sposarla. Akio è ostinato, pensa. Ora Aiwan e Bungie si davano del tu. Pensa che da allora sono passati 5 anni. Mio padre lo ha fidanzato da molto tempo alla figlia di un amico e l'ostinazione di Akio è quindi molto imbarazzante per lui. Ma Akio non vuole saperne che della sua Sumi, la quale Sumi sta molto bene al suo posto, ma non è certo fatta per entrare in casa nostra. Io credo che mio padre abbia ragione e che sia ormai tempo che Akio si sposi, ma lui non vuole. Ridicolo. Poi Bungie soggiunse: Ti dico questo perché non devi farci caso se Akio è malinconico e non bada a te. Non bada a nessuno, Akio, e la cosa è tanto più strana, dico, la sua disubbidienza al padre, in quanto in tutte le altre cose, soprattutto negli affari, Akio è di una diligenza e di una sottomissione esemplari. Hai visto la donna? Domandò Aiwan. L'amore. Akio è innamorato, sì, è tipo capace di amare, come si legge nei libri. Sì, rispose Bungie. Sumi è brava abbastanza per il suo rango di cortigiana, ma non ne sono molto informato. Quantunque sia maturo abbastanza, non ho ancora cominciato. E come dire, certe pratiche, anche perché costano denaro e tempo. Del resto sono un mobo io, e molti mobo si astengono come me. Forse sposerò una moga. E le vecchie abitudini non le piaceranno. Le donne all'antica naturalmente non ci fanno caso, rise. Ecco perché mio padre ce l'ha tanto con Akio. E poiché la sua fidanzata non è una moga, è grave smacco per lei il fatto che Akio non possa sposarla. Dopo quel giorno, tutte le volte che Aiwan vedeva il tranquillo volto e i tristi occhi di Akio, gli veniva da pensare a quello che gli aveva detto Bungie. C'era una specie di fascino in Akio ed egli lo sentiva, un fascino che lo attraeva e insieme lo respingeva, poiché Akio in realtà non era di questo mondo. In quella casa, del resto, c'era una strana miscela di rigore e di rilassatezza. Akio la spuntava in un certo suo modo e mancava spesso di casa, ma nessuno domandava mai perché, e non accadeva mai, almeno sotto gli occhi di terzi, che la cortesia più stretta venisse meno tra lui e suo padre. Ciascuno dal canto suo cedeva e non cedeva. In realtà non avrebbe mai ceduto. Quel che era stato detto e non giovava a tornarci sopra, e così la vita continuava. In quanto ad Aiwan, il nuovo senso di serenità non poteva naturalmente colmare il vuoto della sua vita intima, e nemmeno ci riuscivano le novità fra cui viveva. C'erano tempi in cui sentiva che tutte le sue lettere, tutti i suoi sogni non facevano in realtà che acuire il suo intimo bisogno. Egli era di quelli che per natura devono adorare qualche cosa e adesso non aveva nulla da adorare. La sua vita era stata colmata da grandi cose, dall'amicizia con Elan, dalla parte presa nella rivoluzione, dalla sua speranza in Chiang Kai-shek, tutte dolorose delusioni. Non poteva neanche più pensare ad Elan come a persona viva. Si interrogava superstiziosamente ora su Elan, ma non c'era nulla, non trovava nulla, e quel vuoto lo interpretava come un segno che Elan doveva essere morto. Anche Peonia, forse, era stata travolta. I giornali di Nagasaki erano pieni di particolari sulla repressione. Non davano nomi, ma solo cifre. Migliaia di giovani e di fanciulle erano stati passati per le armi. Aiwan si diceva che apparteneva a quella falange e che anche lui, perciò, avrebbe dovuto essere morto. Solo il potere di suo padre lo aveva salvato, quel potere che egli aveva tanto disprezzato, perché era il potere del denaro. Suo malgrado, egli aveva tradito la rivoluzione, così come era stato tradito a sua volta. Che cosa ne era delle promesse tante volte fatte agli operai degli stabilimenti? Mentalmente li rivedeva tornati al loro lavoro, senza speranza, di nuovo passivi al loro destino, borbottandosi a vicenda che, dopo tutto, avevano bene appreso che per loro non c'era nulla da fare. Nulla per Aiwan era rimasto degli antichi ideali. Esteriormente potevano distrarlo quelle sue giornate in uno strano paese, quel vivere diverso, la scanzonata e briosa allegria di Bungie, il lavoro in ufficio e le serene ore nella casa di cui era ospite. Ma c'era sempre quel gran vuoto dell'anima, dell'anima sua. Che cosa fare per riempirlo? Quando era solo, lo spaventava. Quali spunti per sognare se non quelli dei libri che andava leggendo? E quale mai significato poteva ancora avere la speranza? Sentiva che davvero non avrebbe mai più sperato in cose concrete. Leggere le lettere paterne gli produceva una strana tristezza, come se fossero state scritte molto tempo innanzi da un morto. Arrivavano regolarmente una volta al mese, ma nulla di quel che dicevano pareva reale, per quanto suo padre assicurasse che le cose tornavano a essere come un tempo. Gli affari, ora che si poteva star certi che il nuovo governo non avrebbe proceduto a grandi mutamenti, erano in ripresa. All'estero il paese godeva credito. Gli stranieri facevano a gara per offrire prestiti alla ricostruzione nazionale della Cina. In quanto ai radicali, erano tutti in fuga. Per i pochi stranieri accidentalmente uccisi durante i combattimenti svoltisi l'anno innanzi a Nanchino, erano state concordate congrue indennità. Tutto, insomma, tornava normale, stabile. L'antica pace e l'antico ordine sarebbero stati rapidamente ristabiliti. La famiglia, dal canto suo, non registrava grandi novità. Aiko era ancora in Germania e il prudente genitore aveva disposto con accorgimento che i fondi gli pervenissero soltanto per tramite della scuola militare che frequentava. La madre sentiva la mancanza dei figli, ma Tanto lei quanto il marito erano contenti di sapere che, in un tempo in cui tanti giovanotti avevano fatto una tragica fine, i figli loro erano sani e salvi. Solo la nonna era angustiata perché non riusciva a trovare chi potesse sostituire Peonia. Le ragazze di servizio oggigiorno erano pigre e impudenti. Infine, per quanto riguardava Iwan, suo padre gli ricordava la necessità di far pratica commerciale, nell'attesa di intercedere un giorno presso il governo per ottenere il suo rimpatrio. Unica condizione, Iwan doveva guarire radicalmente dalle idee rivoluzionarie. Iwan strappava le lettere in tanti pezzettini e le gettava al vento. «Non desidero tornare», scrisse a suo padre. «Questo paese in cui risiedo mi piace assai. Bene o male, sarebbe diventato un giorno un buon uomo d'affari».